24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. A sorpresa, Benjamin Netanyahu ha vinto le elezioni politiche in Israele. Il primo ministro che inizia i colloqui per formare un governo di coalizione. Netanyahu è andato a dormire con gli exit poll che lo davano testa a testa col rivale di centrosinistra Herzog, si risveglia trionfatore, promette che formerà questo governo di centrodestra e non di unità nazionale. Dunque, Maurizio Molinari, buongiorno, corrispondente da Gerusalemme della Stampa. Come mai tutti i sondaggi avevano sbagliato? Perché anche quelli di Likud erano errati. Anche il premier uscente aveva di fronte a sé un'analisi sbagliata basata su campioni territoriali che non tenevano conto due elementi. La forza della mobilitazione degli abitanti degli insediamenti ebraici, esatto, in Cisgiordania, e l'entusiasmo di costoro. Ecco, ma in ogni caso, per una ragione o per l'altra, i sondaggi sbagliano sempre, sembrano sempre di più un elemento più per fare spettacolo e preparare gli eventi che non per leggerli. Paradossalmente hanno aiutato nell'essere errati Netanyahu a vincere, cioè a mobilitare i suoi, facendo temere che il temuto centrosinistra potesse prendere il controllo di Israele. Ecco, però, l'ha detto Netanyahu, sarà un governo di centrodestra e non un governo di unità nazionale. Che cosa significa? Significa anzitutto un duello con il capo dello Stato Rivlin, uomo di destra che però vuole l'unità nazionale, perché la campagna elettorale ha messo in luce le profonde divisioni del paese su temi sociali, economici e anche sul processo di pace. Ma quindi è un vero ribaltone anche nella prospettiva? Assolutamente sì, Netanyahu è riuscito a capovolgere le previsioni dicendosi apertamente contro lo Stato palestinese, ecco, per la costruzione di più insediamenti. Ciò significa sfidare anzitutto Abu Mazen, non solamente Barack Obama. Ecco, infatti lui ha detto votatemi, lo Stato palestinese non nascerà. Questo però in realtà è una dichiarazione, sostanzialmente una dichiarazione di guerra. Significa abbandonare gli accordi di Oslo del 1993, spiega perché questa mattina Saeb Erekat, consigliere di Abu Mazen, ha detto non abbiamo più speranza, punteremo a un riconoscimento unilaterale da parte delle Nazioni Unite. Che sarà una cosa che rimette in campo in modo pesante lo scontro tra Israele e gli Stati Uniti. L'Israele è inteso come Netanyahu, perché Netanyahu e Obama mi pare che facciano fatica quasi a salutarsi. Sì, ironia della sorte vuole che nonostante tutto sono andati al governo assieme nel 2009, hanno dovuto convivere loro malgrado raggiungendo il punto più basso delle relazioni, ma in fin dei conti probabilmente Netanyahu resterà al governo più di Obama perché ha di fronte a sé 4 anni. Ecco, questi 4 anni, con questa vittoria, Netanyahu sarà il leader israeliano che governerà più di Ben Gurion, il fondatore dello Stato di Israele. A questo punto si può quasi considerarlo un secondo padre della patria di un nuovo Israele. Sì, una rifondazione dell'idea del sionismo che tende a includere anche i territori di Giudea e Samaria. Io credo che dietro questa vittoria c'è una trasformazione dell'identità del paese. Non c'è solamente l'abbandono di Oslo, ma l'idea che esiste una maggioranza di israeliani favorevole a un Israele territorialmente più grande. Al grande Israele, diciamo così. Che si richiama alle origini del messaggio del sionismo revisionista di Zev Jabotinsky, che fu il padre ideologico di Menachem Begin. Ecco, ma con un Israele orientato così, sotto la guida di Netanyahu, con questa prospettiva, naturalmente anche le trattative sul nucleare con l'Iran saranno molto più difficili, cioè il tentativo di interposizione di Netanyahu sarà molto più forte. Netanyahu diventa, assieme al presidente iraniano Rouhani, al presidente turco Erdogan e al presidente egiziano Al-Sisi, uno dei 4 uomini forti del Medio Oriente, una regione che si sta ripensando e riscrivendo. Nasceranno nuovi equilibri fra questi 4 uomini e questi 4 paesi. Ecco, questi nuovi equilibri naturalmente si inseriscono in un quadro di alleanze internazionali diverse, perché la politica estera di Israele, lo stai dicendo anche tu, con questi altri 3 interlocutori sul territorio, nella zona, avrà un cambiamento di rotta abbastanza deciso. credo che ci sarà una rivalità nella creazione di reciproche sfere di influenza a dispetto di interlocutori più deboli, e ci sarà anche concorrenza nel cercare interlocutori internazionali differenti, non più solamente gli Stati Uniti, ma i russi e i cinesi. Ecco, infatti, sembra con questo orientamento nuovo che nell'orizzonte di Netanyahu, di questo Israele, di questo nuovo Israele, ci possa essere più la Russia che gli Stati Uniti. E soprattutto la Cina, attenzione, che è diventato il secondo partner commerciale di Israele nel 2014, superando gli Stati Uniti. Ecco, ma questi nuovi equilibri, secondo te, si otterranno attraverso una nuova ondata di attentati terroristici per ritrovare gli equilibri diversi? No, credo che però andremo incontro a molti scossoni da un punto di vista politico interno e internazionale, perché questi quattro paesi, l'Egitto, Israele, la Turchia e l'Iran, hanno strategie molto diverse e hanno leader con identità ideologica molto forte. È molto forte, sì. C'è Mario Secchi che vuole anche... Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Allora, ma sì, i sondaggi erano sbagliati, e va bene, però sappiamo tutti per esperienza che i sondaggi vanno presi più che con le pinze, appunto con grande distanza. Però io ho letto anche, ahimè, non erano i tuoi per fortuna, ma dei reportage che erano abbastanza lunari rispetto a quella realtà che in fondo in qualche maniera si poteva immaginare, se uno parla insomma con un po' di persone che conoscono le istituzioni israeliane e la popolazione. Insomma, una sconfitta di Netanyahu ci poteva anche stare, ma ci poteva anche stare la vittoria. Io invece ho letto delle cose veramente imprudenti. Ma non c'è dubbio che c'è stato un vento anti-Netanyahu molto forte nel paese, soprattutto da un punto di vista economico. Una parte importante del fronte conservatore in Israele si è rivoltato contro Netanyahu sui temi dell'economia per ragioni di insoddisfazione sociale. Lui è stato molto abile a capire che li avrebbe potuto recuperare sul terreno della sicurezza, sì. E lo ha fatto nelle ultime 96 ore. Velocissimo. Grazie, bravo. Maurizio, grazie. Monio Vadia, intellettuale, buongiorno. Scrittore, buongiorno, artista, uomo di cultura, di impegno civile. Cosa significa per te la vittoria di Netanyahu? La prima cosa, lo dico in modo un po' così, magari eccessivo, ma Israele non è un partner per la pace. Certo, questo è un dato di fatto, cioè la pace si fa in due col reciproco riconoscimento. Netanyahu l'ha detto in modo chiaro, sì, che lui non ha nessuna intenzione di riconoscere uno Stato palestinese. E quindi un passo verso una nuova guerra con i palestinesi. Ma forse non una guerra con i palestinesi. I palestinesi, che sono il popolo più solo del mondo, che mostrano che non c'è un giudice a Berlino, cioè che la comunità internazionale non esiste, esiste solo per il cocktail party, non so come dire. Gli incontri, sì. Dopo 50 anni di occupazione, non essere riusciti a dare a questo popolo neanche il riconoscimento totale della sua dignità di Stato e di Nazione, significa sostanzialmente questo. Quindi questo, ecco, è il primo dato di fatto se lo guardiamo dal nostro, certo, punto di vista. Ecco, per quanto attiene alla società israeliana, è vero che ci sono altri fattori che interessano la società israeliana, che è una società molto bloccata, a mio parere, molto più della questione palestinese. Questo al di là di ogni altra considerazione, anche se avesse vinto l'alleanza sionista, eccetera, non è che sarebbero cambiate granché le cose rispetto alla pace con i palestinesi. Questa è una questione che implicherebbe un cambio della società israeliana. Ecco, senta, i molinari prima erano piuttosto, insomma. Ecco, Ovadia, senta che cosa diceva Rabin nel suo ultimo discorso prima di essere ucciso. Siamo tornati e abbiamo costituito una nazione qui in Israele. Ma non siamo arrivati su una terra disabitata. Qui c'erano dei palestinesi che hanno combattuto contro di noi in secoli fatti di pogrom e sangue. I morti sono stati migliaia, da ambo le parti, e per lo stesso pezzo di terra. Possiamo continuare ad uccidere ed essere uccisi. Oppure possiamo interrompere questo infinito ciclo di morte. Possiamo dare una speranza alla pace. Ecco, fa impressione questo discorso di Rabin, sì, risentito adesso, davvero un discorso disperato. La pace, no, la pelle ce l'ha lasciata lui, diciamo, per questo ce l'ha discorso. Lasciata lui, e io, a me non, io non amo nessun tipo di dietrologie, ma nessuno mi convincerà che un signore armato di pistola arriva a pochi centimetri dal primo ministro di Israele, il paese più blindato del mondo, e che questo sia solo un individuo pazzo. Cioè, io credo che l'assassinio di Rabin, credo che abbia avuto le complicità, quali e come non lo so, io non faccio il dietrologo, ma al di là di queste cose vorrei unire a queste parole, per drammatizzare di più se è possibile, la dichiarazione di Shabtai Shavit, che è un ex capo del Mossad, messa ieri in un video sul Guardian, il prestigioso giornale britannico, e lui ha detto questa cosa: Netanyahu e Bennett insieme rappresentano la peggiore minaccia per il futuro di Israele. Questo è un ex capo del Mossad e non Moni Ovadia, che se lo dico io sono l'ebreo antisemita, forse se lo dice un ex capo del Mossad, accidenti, può avere un po' più di credito di Moni Ovadia. Ecco, ma allora questo può essere visto su un video, proprio era in attachment ieri, cioè faceva parte del giornale del Guardian di ieri. Accidenti. Comunque niente, secondo me la situazione dal punto di vista della pace è catastrofica. Le comunità ebraiche occidentali hanno spesso manifestato, l'abbiamo visto anche nella freddezza degli incontri tra Netanyahu e il presidente americano, hanno manifestato contro questa politica di Netanyahu nei confronti dei palestinesi. Però in Israele evidentemente non hanno più ascolto, cioè Israele si è chiusa nel suo mondo. Credo di sì, tendenzialmente sì, le opposizioni sono debolissime, e in realtà non sono coraggiose, magnifiche anche per prenderne il loro coraggio, però credo di sì, cioè una chiusura. Del resto le comunità ebraiche nel mondo sono molto tiepide, non è vero, sì, hanno manifestato disappunto, disaccordo, ma sempre in modo, secondo me, estremamente tiepido. No, l'unica novità è questa presenza del blocco arabo, cioè del blocco dei palestinesi israeliani di passaporto israeliano, cittadini dello Stato Israele, insomma 14 deputati in un Parlamento come la Knesset, che ne ha 120, sono tanti. Sì. Questo rappresenterà qualcosa. È una novità questa, sì, ecco, fortissima. È una novità che però non credo che sposterà in modo... Non subito, certamente. Non subito le cose, dipende anche da cosa succederà alle prossime elezioni degli Stati Uniti, capire chi sarà il nuovo presidente, quale politica vorrà fare, anche se non ci sono anche grandi aspettative neanche da quella parte. Ecco Vadia, senti, la politica di Netanyahu, l'ha detto lui stesso, sarà tutta pro coloni, pro espansione nei nuovi insediamenti nei territori, certo, anche per l'aumento dell'immigrazione verso Israele, che in qualche modo è collegata anche alle paure di antisemitismo più o meno latente che sono presenti in Occidente. Senta, è così? No, sì. No, io non credo. Questa cosa dell'aumento dell'immigrazione è l'ennesima scusa di Netanyahu per fare la sua politica. Netanyahu è un uomo fortemente ideologizzato, viene, come è stato detto molto bene, dal sionismo revisionista di Zev Jabotinsky, attraverso Begin, Shamir, non Sharon. Sharon veniva da un'altra parte come formazione, e poi direttamente a Netanyahu, che semplicemente non considera i palestinesi un popolo, ha un atteggiamento del tipo discriminatorio e direi anche razzista, perché gli slogan razzisti si sono sprecati in questa campagna elettorale, come ha scritto il grande, coraggiosissimo giornalista israeliano Gidon Levi, dicendo che il linguaggio razzista oramai in Israele è un linguaggio accettato comunemente, ecco, non scandalizza più nessuno, linguaggio razzista nei confronti degli arabi. Sì, certo. Quindi la situazione io la vedo molto molto molto nera, poi la storia non segue le previsioni così come i risultati politici non seguono gli exit poll o i sondaggi, sa? C'è un detto che dice se un profeta profetizza sul futuro è un falso profeta, e se ci azzecca è ancora più falso. Allora è meglio risparmiarsi profetizzare, e chissà cosa può succedere. Ovadia, c'è Pietrangelo Buttafuoco che vuole intervenire. Sì, ciao Moni. Carissimo a Pietrangelo. Ciao Pietrangelo. Ciao. Senti, una cosa mi ha colpito molto stamattina: leggere le reazioni degli esponenti di destra, sia in Italia che nel mondo, felici per il risultato di Netanyahu. Ma soprattutto un dettaglio: il fatto che fossero contenti che i palestinesi, ecco, restassero al posto loro. Io ti chiedo questo: qual è la tua idea a questo punto? Che la destra nel mondo, a maggior ragione poi negli Stati Uniti, da questa vittoria elettorale trae ossigeno, quindi immaginiamo un futuro dove ci sarà il famoso presidente degli Stati Uniti che straccerà tutti i propositi di accordo e di pace? Ma insomma, questo è difficile dirlo, è una prospettiva... Diciamo, perché la destra non ha una forza universale così grande, così assoluta. Certo, le destre di oggi, essendo il livello, questo vale per tutto il personale politico, destra, sinistra e centro, antropologicamente non granché, non dico neanche culturalmente, si comporta un po' come il cane di Pavlov, cioè c'è una vittoria a destra, scodinzolo perché è una vittoria a destra, senza neanche pensare bene che cosa questo possa significare, perché prima giustamente Minoli ha detto, ma dire che lui non vorrà lo Stato palestinese, farà di tutto, estenderà le colonie, è una dichiarazione di guerra, di fatto è una dichiarazione di guerra, perché se tu non vuoi fare un accordo, non vuoi trattare una pace, allora che cosa vuoi fare? Ma infatti perché si eccitano davanti a questa prospettiva? Perché appunto sono un po' pavloviani, sono molto primitivi, scodinzolano, esatto, senza ben pensare Mario, a quello che succederà. Sì. Mario, non so come dire. C'è Mario Secchi. Buongiorno Varia. Ciao Mario. Allora, sì, io sono per la soluzione dei due stati, così chiariamo subito il campo da quale parte sto, no? Che mi sembra la cosa più ragionevole. Però sospettavo, quantomeno avevo l'intuizione, come dire, la sensazione che Netanyahu fosse in realtà non solo in vantaggio, ma potesse vincere. E non mi ha sorpreso che lui abbia fatto la dichiarazione di chiusura totale sullo Stato palestinese. Ecco Moni, allora questa cosa non deve un po' far riflettere sull'immagine deformata che si è data in tutte queste settimane di quello che sentiva la popolazione di Israele? E non dobbiamo fare autocritica su questo anche in Italia, non trovi? Io credo di sì, io credo che l'evoluzione che ha avuto la società israeliana e quelle che sono anche le sue strutture politiche statuali negli ultimi 20-25 anni dovevano far capire che comunque, a prescindere da Netanyahu, le cose non sarebbero cambiate così radicalmente. Ed è vero che Netanyahu incarna l'anima profonda di quel cambiamento radicale che avvenne all'indomani della sconfitta per la prima volta del blocco laburista del Mapai, all'indomani della guerra del Kippur, pochi anni dopo, diciamo nel 77. Da quel momento in avanti, con il solo interludio di Rabin, lo Stato Israele si è mosso verso... Ecco Moni, sì. No, scusa, non ti interrompo, ma il tempo corre. Cioè, ti volevo leggere un messaggio che ci scrive Giovanni da Bologna e dice: ma i palestinesi non vogliono Israele, vogliono che tutti gli ebrei muoiano, dice Giovanni da Bologna. Lo dicono in tanti, ne ho letto uno per tutti dei messaggi che ci stanno arrivando. Tu cosa gli rispondi? No, non lo so, le persone che scrivono questa cosa non sanno neanche cos'è un palestinese. Vorrei sapere da loro quanti ne hanno incontrati, quanti ne hanno frequentati, sono stati nei territori, hanno spezzato il pane con una normale famiglia palestinese, oppure con intellettuali, o che ne so, come nel mio caso, con uomini di teatro, musicisti. No, non sanno niente, non sanno neanche che nello Stato Israele vivono in quasi il 20% della popolazione, 18-20%, certo, è composta da palestinesi, come verranno trattati? Bravo Moni. L'ignoranza, sì. L'ignoranza. No, c'è un'ignoranza vera del mondo arabo, dell'Islam, di tutto. Per, lo ripeto, c'è un decadimento. Ma è comodo, è comodo, è un'ignoranza che fa comodo alla politica, è un'ignoranza, esatto, che fa comodo, cioè, alla politica. Alla demagogia, sì, alle chiacchiere retoriche. È così. Non si conosce nulla, neanche di Hamas si conosce nulla. Io non ho detto, io sono contrario a ogni forma di violenza per costituzione, per statuto, però se vuoi fare la pace, la prima cosa che devi fare è riconoscere che hai di fronte. Certo, naturalmente. Questa gente spara sentenze. Io propongo adesso, la paura governa la politica. Anche di abolire queste forme di comunicazione primitive che sono degne dei tamburi. Non bravo, Moni, bravo. Grazie. Mix 24. Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride, e nulla sa di te. Andiamo? E allora? Come un formicaio la città al mattino, ed è quella sensazione della pienezza, ma più è piena più ci si sente soli. E il filosofo oggi si è piazzato sulla pedana che collega due vagoni in corsa, proprio nel punto di passaggio, e in quella sorta di budello dove transita la folla per poi riversarsi, già digerita in strada, ha spiegato la solitudine e la sua necessaria premessa, avere la folla intorno. A maggior ragione poi, avendo un amore in cuore, pensando a lei, ha detto lui, lontana, a far scorrere il destino mentre la vita si consuma. Nella città vuota, Mina. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la vita vuota mi sembra. Grande Mina. Sì, grande. Infatti perdono Buttafuoco oggi proprio, solo perché ha scelto questo brano, solo per quello. E tu? Dove vai? Io oggi ho una selezione fantastica di notizie e di musica. Senti, vediamo. Allora, questo è Fresh, Cool and Gang, vecchio pezzo che però fa sempre ballare tutti, anche adesso se lo metti in una festa, vai. Allora, banche centrali, Fresh per quello. Oggi c'è una riunione importante della Federal Reserve, gli occhi di tutti i mercati sono puntati su questo, che darà un quadro dell'economia americana e dunque anche globale, perché comunque l'America è sempre il treno della crescita o della decrescita, ed è un appuntamento che di fatto in qualche maniera prepara a un imminente rialzo dei tassi. Segnalo che Ray Dalio, che è il proprietario di Bridgewater, che è un hedge fund non piccolo, parliamo di 165 miliardi di dollari, dice che la Fed in realtà deve essere molto cauta in questa mossa, perché rischia di provocare una caduta del mercato pari a quella che accadde nel 1937. 37? Sì, molti sanno, quelli che hanno studiato queste cose, storia dell'economia, che dopo la crisi del 29 cominciò una politica ovviamente monetaria espansiva, cominciarono a stampare moneta, abbassare i tassi, un po' come adesso, e anni dopo invece procedettero in maniera inversa, all'improvviso preso la decisione di aumentare i tassi, di cambiare la politica monetaria. Questo provocò una perdita di un terzo del valore dei titoli e continuò ad andare in negativo la borsa anche l'anno seguente. Sono lezioni dal passato, previsioni troppo fosche, vedremo, però sai, è l'opinione di un operatore molto stimato nel settore che lavora sul mercato reale, non teorico. No, poi è arrivata la seconda guerra mondiale. Esatto, quindi per chi vuole ricordarla, e siccome c'è tutto, Israele, Netanyahu, insomma, un po' c'entra, Salamino. Esatto. Salamini di famiglia, il partito della nazione, però l'unica nazione riconosciuta oggi dagli italiani è la famiglia. Allora, inchiesta a Firenze sugli appalti delle grandi opere, spunta il nome di Maurizio Lupi, NCD, ministro alle infrastrutture. Il ministro non è indagato, ma il governo è in imbarazzo per via del legame assai stretto tra Lupi e Ercole Incalza, dirigente del Ministero per le Grandi Opere, arrestato lunedì. Nelle carte compare anche il nome di Luca Lupi, figlio del ministro, e sarebbe stato aiutare a trovare lavoro in un cantiere Enida Stefano Perotti, un ingegnere arrestato lunedì, e che avrebbe regalato al figlio di Lupi un Rolex da 10.350 euro, questo per la laurea. Il governo è in imbarazzo e sotto sotto Renzi chiede a Lupi di dimettersi. Lupi, assediato, non se ne va. Questo del figlio però è un dettaglio che più che rivelatore è confermatore, se così si può dire, del nascente partito della nazione a cui sta lavorando il signor premier. Assediano infatti Lupi, ma Carlo Giovanardi osserva, ingenuo e allo stesso tempo sgamato: scusate, e il padre di Renzi allora? E così, riguardo alla Banca Popolare di Etruria, potremmo dire: e il papà della soave Maria Elena Boschi allora? Insomma, il partito della nazione è bello che sorto. Leo Longanesi aveva capito tutto. Il tricolore italiano non ha stemmi né emblemi, ma solo un motto: tengo famiglia. Hanno cambiato anche l'inno nazionale, non più Fratelli d'Italia, ma questo. Oggi che giorno di festa, tutti quanti in campagna si va. C'è la famiglia modesta che col treno va fuori in città. Ma c'è qualche altra famiglia che ha il decoro della nobiltà. E per sposare la figlia sul con la macchina va. La mamma. Bene, siamo arrivati dopo la famiglia, siamo arrivati a Sara Tardelli che ci racconta la sua quota rosa. Parigi, la città degli incontri, dell'amore, della moda e delle diete. Sì, è la città europea dove statisticamente più donne seguono una dieta. Evidentemente essere capitale della moda ha i suoi pro e i suoi contro. Per esempio, almeno 40.000 adolescenti sono anoressiche. Il governo francese sta valutando una nuova legge da applicare alle agenzie di modelle. E cosa dice questa legge? Vuole imporre l'obbligo per le modelle, appunto, prima di firmare un contratto con un'agenzia in Francia, di presentare un certificato medico che dimostri il loro indice di massa corporea. Cioè, una modella alta, più o meno 1,75 m, dovrà pesare non meno di 55 kg, il che mi sembra ragionevole. Altrimenti il responsabile affamatore dell'agenzia si può beccare una multa di 75.000 euro e fino a 6 mesi di carcere. Chissà che anche in Italia la carta di buona condotta sottoscritta dal mondo della moda contro l'anoressia si trasformi in un obbligo di legge. Intanto, viva i maccheroni! Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. Bolla! Vai! Supertramp, Goodbye Stranger, classico, anche questo, oggi abbiamo detto che siamo un po' retro, ma con gioia. E retro in fondo è anche il presente che si occupa stranamente, bizzarramente del passato. Pensate un po' alla partita che è in corso tra Grecia e Germania, non calcistica ma politica ed economica. E domani c'è il Consiglio europeo, oggi Renzi cominciava ad illustrare in Parlamento quelle che saranno le linee guida dell'Italia. Atene naturalmente attende che cosa? Un semaforo verde, spera, o forse rosso, alle sue proposte. E nel frattempo segnalo appunto, ed eccolo il passato che riemerge, e la balzana richiesta di chiedere i danni di guerra fatta dai greci nei confronti della Germania non è stata del tutto respinta. Questa è la cosa divertente. I socialdemocratici tedeschi ci hanno cominciato a ragionare e a dire: beh, apriamo un tavolo, parliamone, non proprio in termini legali, ma politici. Pensate un po' che cosa succede tra i turchi, la Grecia, tutta quell'area, se si apre una singola tenzone sulla guerra di Troia. Per non parlare della disfida storica tra Sparta e Atene. Non voglio immaginare. E a Barletta non lo so. No, beh, troppo vicina. Il canzoniere... Che stramberia, direte. Eh no, no, badate che la letteratura è piena di questi fatti. C'è chi ha immaginato la mano mozza di un assassino che continua a uccidere. C'è chi si è sbizzarrito con la testa di un ghigliottinato che è seguita a parlare. In genere sono racconti dell'orrore, fanno rabbrividire. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, se volete indovinare chiamateci. Pubblicità. Mix 24. Hai visto in regia Giovanni, guardali. Ballano. Guardali, guarda, ballano tutte reg proprio, vabbè, il grandissimo Vai. Bob Marley. Digitale, sai, noi ce ne occupiamo sempre. Tutti i giorni. Due cose importanti che segnalano un cambio del passo e dei tempi e indicano una via del futuro. Microsoft manderà in pensione il marchio Explorer, cioè parliamo della mitica era in cui cominciarono a nascere, nacquero i web browser. È una scelta, diciamo, coerente anche con quella che è stata la parabola di quello strumento, che alla fine non ha avuto la fortuna negli ultimi tempi, soprattutto è stato superato da risorse libere che c'erano nel software e così via. Quindi questo è un punto. L'altro punto interessante da studiare, sul quale riflettere, è che Facebook si vuole verso il portafoglio digitale e dà ai suoi utenti la possibilità di trasferire denaro attraverso Messenger. Stiamo parlando di una cosa rivoluzionaria, perché tu devi immaginare i milioni, milioni, milioni e milioni e milioni di utenti di Facebook che collegano la propria altri servizi a valore aggiunto. Certo, ma loro collegano la carta di credito e in chat trasferiscono denaro. Parliamo di una cosa che, diciamo, la disintermediazione delle banche sta per arrivare. Si ferma solo al fatto che non hanno le licenze, ma sono alla porta ormai della banca. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS è troppo difficile. Il nostro canzoniere per adesso, aiutino, vai col... aiutino e la Russia, letteratura russa, un po' di più, fisionomica, no, Salamini. Salamini di magistrati. Allora, Nicola Gratteri, magistrato, doveva essere nominato ministro nel governo del signor Renzi, ma poi saltò, venne espunto perché considerato troppo magistrato. Raffaele Cantone, invece, il presidente dell'autorità anticorruzione, è l'ingrediente principe nella cucina del signor premier. Insomma, è come l'aglio nella matriciana di Carlo Cracco. Adesso ha scritto un libro, Il male italiano. Ovviamente sarà un evangelo più che un prontuario delle necessità, ma quel che descrive al meglio la qualità di questo importante magistrato è un rischio: diventare il prezzemolo di Matteo Renzi. Prima l'Expo, dopo l'ipotesi di candidarlo in campagna alle regionali. Adesso lo vogliono mettere al posto di Maurizio Lupi alle infrastrutture, se continuano le polemiche a Masterchef, dove pare che non siano chiari i regolamenti, sappiamo già dove metteranno Cantone, a fare l'aglio nella matriciana, e per cui a lui questa canzone. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Oggi Buttafuoco. Forma, gran forma Buttafuoco. Sì, anche la musica alla fine. Cioè si modernizza, dici? No, ma io lo amo così, retro. Io e lui siamo così. Retro. Professor... Arcaico. Professor Simonelli, l'esperto di storia della televisione, oggi che cosa ci racconta? Sentite cosa vi racconto Gianna Nannini. Questo amore è una camera grande, è un palazzo che brucia in città. Vabbè, e allora con la sola televisione cosa c'entra? Fotoromanzi, Feuilleton e Melò, perché a dispetto degli americanofili come Mario Secchi che guardano solo House of Cards, beh insomma anche, non è proprio malaccio ma anche Repubblica dice che il futuro e il presente della fiction è nel vecchio feuilleton. Ieri sera è cominciata La Dama Velata su Rai 1, vediamo un po' gli ascolti. Stasera c'è Velvet, venerdì riprende Le Tre Rose di Eva al posto di quel Bosco che non è andato granché bene perché gli horror in Italia non vanno granché. Insomma, il feuilleton spopola e occupa tutti i palinsesti. Ieri sera non era male questa Dama Velata, anche perché si dice un'altra cosa. Insomma, la fiction funziona, va? Che sono coproduzioni, attenzione. Stiamo facendo un passo avanti, ecco il punto. Facciamo un passo avanti, certo. Ci avviciniamo al mercato. Anche perché, sempre Repubblica, intervista nei giorni scorsi Thierry Bizot, un scrittore francese, autore di una fiction di grande successo in Francia, che dice fiction di tutta Europa unita. Infatti. E quindi andiamo, non siamo ancora alle fine. Vabbè, si sta cominciando. Ma ci siamo, se c'è chi lo fa. Anche i francesi e gli inglesi, magari qualcosa di buono fatto. Professore, devo darle una notizia. L'altro giorno, dopo il suo ultimo intervento, che ho dovuto togliere la parola perché lei parla un po' troppo lentamente, sono stato sgridato. Sono stato sgridato da un nostro radioascoltatore che mi ha detto: siete maleducati, il professor Simonelli va rispettato perché è bravo e simpatico. Quindi le chiedo scusa a nome mio perché l'ho interrotta io. Il problema è che, avete visto, la questione che io ho posto è diventata una questione costituzionale. Anche Renzi aveva sbagliato, secondo alcuni, non si può fare a camere riunite. Va bene, va bene. Il Presidente della Repubblica, lo dico, come diceva uno che di televisione ci cattiva, meditate, gente. Va bene, grazie professore, grazie, alla prossima volta, Mix24. Oggi con Marina Millone, come sempre, ripercorriamo la storia di Isaac Rabin. Un soldato nell'esercito della pace, prima comandante supremo delle forze armate israeliane e poi primo ministro. La guerra dei sei giorni è stato il suo grande trionfo militare, per sua stessa ammissione invece la resa ai coloni uno dei suoi peggiori errori della carriera politica, lo dice lui in un suo articolo. Prima della pubblicità e della storia di Rabin, metti Una sera a cena di Chiara Civello. Noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire. E ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà. Metti una sera.